La scuola della moglie di Bossi, la famosa scuola Bosina, con la legge Mancia ha ricevuto più di 1 milione. Bisogna proprio dirlo, in casa Bossi all'istruzione si è sempre dato molto valore.